chitarra, mia dolce compagna, tu che hai vissuto con me nell'allegria, stasera nella mia testa c'è soltanto una gran nostalgia. Adesso mi ritrovo con te a ricordare quel che è rimasto del mio grande amore, perché la donna mia si va a sposare e solo tu consoli il mio cuore. Chitarra, chitarra mia, tu che hai espresso sollievo ad ogni evento, aiutami in questo momento a ridarmi la forza e l'allegria. Con le tue note ridammi il passato, quando tutto sembrava realtà e le tue canzoni erano sogni e volavano sempre più in là. Chitarra, dolce chitarra, com'è triste il mio cuore stasera, il mio canto diventa preghiera, che il mio amore ritorni da me, tu che esprimevi con dolcezza un sentimento e arricchivi il mio amor sempre di più, ora triste accompagni un lamento, non fermarti e piangi con me.